bambini c'è la Champions. Si vedono già grandi in mezzo al campo, si prendono permessi Totti al magico Ronaldo, Zidane, Platini, Maradona e Baggio. Ma quando sono i poveri a vincere trofei, allora il mondo rimane come un vedovo senza eroi. Ci sono troppi soldi, troppe vittime da ricordare. Io amo a piedi nudi un calcio nel pallone. Uomini che corrono dietro a un pallone, può essere una bella storia, ma è solo diversione. In pochi non sanno perdere, per questo non sanno vincere, e vanno allo stadio come al fronte, sempre in agguato. Giocare ci crea conforto, ma tutti i giorni ci crea sconforto. Qui giocano ogni giorno e poco importa se qualcuno si è rotto. Tutti davanti allo schermo a celebrare la messa del calcio. Che Dio vi benedica, a voi i soldi, a noi uno straccio. Frecciano Ferrari dei calciatori nelle autostrade, con donne che sembrano uscite da una demo di Photoshop. Oggi, oltre a giocare, devono anche far vedere che la ricchezza si mostra, altrimenti che serve a fare? Ma quando sono i poveri a vincere trofei, allora il mondo rimane come un vedovo senza eroi. Ci sono troppi soldi, troppe vittime da ricordare. Io amo a piedi nudi un calcio nel pallone, ma quando sono i poveri a vincere trofei, allora il mondo rimane come un vedovo senza eroi. Ci sono troppi soldi, troppe vittime da ricordare. Io amo a piedi nudi un calcio nel pallone.